Canto quindicesimo della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pier. Canto quindicesimo. Quanto tra l'ultimar dell'ora terza e il principio del dì par della spera che sempre a guisa di fanciullo scherza, tanto pareva già inver la sera essere al sol del suo corso rimaso, vespero là e qui mezzanotte era, e i raggi ne ferian per mezzo il naso, perché per noi girato era sì il monte che già dritti andavamo inver l'occaso. Quand'io sentì a me gravar la fronte allo splendore assai più che di prima, e stupor m'eran le cose non conte, ond'io levai le mani inver la cima delle mie ciglia e fecimi il solecchio che del soverchio visibile lima. Come quando dall'acqua o dallo specchio salta lo raggio all'opposita parte, salendo su per lo modo parecchio a quel che scende, e tanto si diparte dal cader della pietra in igual tratta, sì, come mostra esperienza e arte, così mi parve, da luce rifratta ivi dinanzi a me esser percosso, perché a fuggir la vista mia fu ratta. Che è quel, dolce padre, a che non posso schermar lo viso tanto che mi vaglia, diss'io, e pare inver noi esser mosso? Non ti maravigliar, s'ancor t'abbaglia la famiglia del cielo, a me rispose. Messo è che viene di vitar quom saglia. Tosto sarà che a veder queste cose non ti fia grave, ma fiati diletto quanto natura a sentirti dispose. Poi giunti fummo all'angel benedetto, con lieta voce disse: entrate quinci, ad un scaleo vie men che gli altri eretto. Noi montavamo, già partiti linci, e beati misericordes fu cantato retro, e godi tu che vinci. Lo mio maestro ed io soli amendue suso andavamo, ed io pensai, andando, provo ad acquistarne le parole sue, e dirizzammi a lui, sì dimandando. Che volle dir lo spirito di Romagna, e divieto e consorto menzionando? Perché egli a me, di sua maggior magagna conosce il danno, e però non s'ammiri se ne riprende, perché men sen piagna. Perché s'appuntano i vostri desiri dove per compagnia parte si scema. Invidia muove il mantaco a sospiri. Ma se l'amor della spera suprema torcesse in suso il desiderio vostro, non vi sarebbe al petto quella tema, che per quanto si dice più lì nostro, tanto possiede più di ben ciascuno, e più di caritade arde in quel chiostro. Io son d'esser contento più digiuno, diss'io, che se mi fosse pria taciuto, e più di dubbio nella mente ad uno, com'esser puote, con ben distributo, il più posseditor faccia più ricchi di sé, che se da pochi è posseduto? Ed egli a me: perroché tu rificchi la mente pure le cose terrene, di vera luce tenebre di spicchi. Quello infinito e ineffabil bene che lassù è, così corre ad amore come a lucido corpo raggio viene, tanto si dà quanto trova d'ardore, sì che quantunque carità si stende, cresce sovressa l'eterno valore. E quanta gente più lassù s'intende, più veda bene amare, e più vi s'ama, e come specchio l'uno all'altro rende. E se la mia ragion non ti disfama, vedrai Beatrice, ed ella pienamente ti torrà questa e ciascun'altra brama. Procaccia pur che tosto siano spente, come son già le due, le cinque piaghe che si richiudon per esser dolente. Com'io voleva dicer, tu m'appaghe, giunto mi vidi in sull'altro girone, sì che tacer mi fer le luci vaghe. Ivi mi parve in una visione statica di subito esser tratto e vedere in un tempio più persone. Ed una donna in su l'entrar, con atto dolce di madre, dicer: «Figliuol mio, perché hai tu così verso noi fatto? Ecco, dolenti, lo tuo padre ed io ti cercavamo». E come qui si tacque, ciò che pareva prima disparìo. Indi m'apparve un'altra, con quell'acque giù per le gote che il dolor distilla, quando da gran dispetto in altrui nacque, e dir: «Se tu sei sire della villa, del cui nome ne dei fu tanta lite, ed onde ogni scienza disfavilla, vendica te di quelle braccia ardite, che abbracciar nostra figlia, o Pisistrato!» E il signor mi parea benigno e mite, risponder lei con viso temperato: «Che farem noi a chi mal ne desira, se quei che ci ama è per noi condannato?» Poi vidi gente accese in fuoco d'ira, con pietre un giovinetto ancider, forte gridando a sé pur: «Martira, martira!» E lui vedea chinarsi per la morte, che l'aggravava già inver la terra, ma degli occhi facea sempre al ciel porte, orando all'alto sire in tanta guerra, che perdonasse a suoi persecutori con quello aspetto che pietà disserra. Quando l'anima mia tornò di fuori alle cose che son fuor di lei vere, io riconobbi i miei non falsi errori. Lo duca mio, che mi potea vedere, farsi come un che dal sonno si slega, disse: «Che hai che non ti puoi tenere? Ma sei venuto più che mezza lega, velando gli occhi e con le gambe avvolte, a guisa di cui vino o sonno piega? O dolce padre mio, se tu m'ascolte, io ti dirò, diss'io, ciò che m'apparve quando le gambe mie furon si tolte. Ed ei: se tu avessi 100 larve sopra la faccia, non mi serien chiuse le tue cogitazioni, quantunque parve. Ciò che vedesti fu perché non scuse d'aprir lo cuore all'acque della pace che dall'eterno fonte son diffuse. Non dimandai che hai per quel che face, chi guarda pur con l'occhio che non vede, quando disanimato il corpo giace. Ma dimandai per darti forza al piede, così frugar conviene i pigri lenti ad usar lor vigilia quando riede. Noi andavam per lo vespero attenti, oltre quanto potea l'occhio allungarsi, contro i raggi serotini e lucenti. Ed ecco, a poco, un fumo farsi verso di noi, come la notte oscuro, e da quello era luogo da cansarsi. Questo ne tolse gli occhi e l'aere puro». Fine del canto quindicesimo.